Se vita del me Milan e che se strange ven giù la sera e senti male sto minga in pe che c'è sul letto in tu canton e perde ves propri nisun le pesche in guerra sta sulla terra la libertà